612. Quattro quarti all'italiana. Questo dolce si fa nella stessa maniera del precedente, eccetto che si sostituisce al candito l'odore della buccia di limone e all'uva passolina grammi 100 di mandorle dolci con alcune amare, usando anche qui il bicarbonato di soda. Il dolce riuscirà più leggero. Le mandorle, dopo averle sbucciate, asciugatele al sole o al fuoco, pestatele fini con 2 cucchiaiate dello zucchero della ricetta e mescolatele alla farina prima di gettarle nel composto. Se non usate questa precauzione, c'è il caso da trovare le mandorle tutte ammassate insieme. È un dolce che ha bisogno di essere lavorato molto, tanto prima che dopo averci versato il burro, e il mio cuoco ha sperimentato che riesce meglio tenendo la catinella immersa nell'acqua calda mentre si lavora, cosa questa che si può dire anche per le altre paste consimili. Se fatto con attenzione, sarà giudicato un dolce squisito.